ferma quel campo, per la macchina che deve passare in all'angolo e solo lì. Vai, vai al campo. Va bene, va bene. Dico, tanto conviene che tenga chiuso fino di là, come si chiama, quando prendiamo la camionale, così aspettano. Sì, infatti. Sì, sì, qua da me è tutto bloccato. Passo dietro qui? No, se ti sposti un po' sulla destra, qua me ne passo io. Perfetto. Marco, adesso arrivano un po' di macchine. Cappa, cappa, già le sto vedendo. Qua già è larga, ci passano bene le macchine. Conorca! Cazzo, che se fai il costo. Non ti piace essere mezzo? No, quando ero avanti lo sentivo chiaro anch'io, Forse fa interferenza tra due radio. No, no, quello che ha preso qualche colpo all'antenna, a volte va bene, a volte vuole ricontrollarlo. Quando ho tempo lo controllerò. Anche la mia funzionava, se ti ricordi, sempre male all'inizio. Dopo io ho pulito tutti i contatti, rimesso tutti i cavi di nuovo e adesso si sente bene. E quello non so, se lo, quando lo fermo, che lo devo rifare l'impianto elettrico, lo controllo bene. Ma stiamo aspettando nuova macchina. E noi ce l'abbiamo già nuova, noi ce l'abbiamo il Mercedes. Lo so, ma anche doveva essere anche una, se non sbaglio, Dacia. Il Dacia gli ho montato il pannello l'altro giorno, l'ho iniziato. Ti piace il Mercedes? È bellino, l'allestimento per quello che ha speso Arca è fatto un po' a cazzo di cane. L'impianto elettrico è un po' fatto grossolano, Sì, l'allestimento è bellino, però l'impianto elettrico è tutto passato male, è stato un po' dargli una stemmatina. Ho visto che anche il quadro è stato. Sì, è stato bellino, però è giusto che non sono l'anno l'impianto, è passato tutto male. Lui ci ha detto Andrea che ha preso 2000 euro per fare l'allestimento. Io sapevo che ancora non è andato l'ottimo. Sì, non capisco la bugia qual è di Azzara. Però ti dico una cosa, che quello è... era qualche allestimento, c'era che era su qualche altra macchina, io non ho messo a quella. Anch'io, beh. Che l'ho visto. Vabbè, Azzara è un po'. Azzara, lo sai che è un mondo a sé. Sí, vi tal esto, Dario, de todas las veces, multimigrado, y se joye, y recuerda, papá, voy a ir a doctor Bazi. Dios, te falla, segnale tipo 9 più 15 abbondante, diciamo, dai. Vedi il mio segnale? Cosa segna? Dove arriva la lancetta? Dopo un po'. Ecco qua. Segnale 9, la verità. Ah, forse bisogna ritoccare qualcosina, forse dipende dalla tensione in arrivo, non so come sia pilotato quello. È probabile che dentro l'apparato, io non la conosco quella scheda madre, no, so solo che è una cybernet, ci dovrebbe essere anche il guadagno cioè la taratura dell'Ausmitter. Bravo, ci sei arrivato, è quello che volevo richiederti più che altro. La prima cosa è quella, dopodiché mi serviva la LC, più che altro. La potenza è, sono 6 watt, vabbè, devi contare che io ho dei fini e quindi da 6 scende a 5 e mezzo, hai capito? C'ho quei fili ma fini, c'è pensato quelli che usavo per le casse dello stereo, quelli fini, quindi devo cambiare i capelli, ma quello non è un problema, non mi interessa quello. Più che altro è quella storia lì, hai capito? Perché posso al limite aumentare la potenza, l'audio eccetera eccetera, però quello lo posso fare solamente quando, quando ci metto i cavi di luce. Adesso cerco lo spinotto giusto, glielo piazzo e così me lo apposto. Comunque ho dovuto graffiare appena appena con con la forbice e c'è entrato giusto. Ah, ecco, non era proprio standard, identico, però bene o male c'è stato, sì. Sai cosa dovresti fare? Tu quando trovi un segnale intorno al 9, come avevo fatto io per il 3009, e tu col K, quello che è, col K, no? Tu quando becchi qualcuno che modula che è 9, dovresti basare la taratura su di lui e gli fai il 9, Santiago 9 uguale a quello del K. E così avevo fatto per il 3009. Ho capito. Tu, vabbè, comunque tu dovresti essere 9-10, è la verità. Si dica, io adesso quando scaccio un puntante, adesso io purtroppo non so qual è il trimmer della taratura in trasmissione, e mi risulta 5, hai capito? Il discorso è quello lì, tutto lì. E quello che volevo sapere il trimmer, qual è il modo da poterlo regolare? Non è che posso andare a regolare il trimmer così alla catrigale. Allora sto guardando in rete, ho messo taratura Smitter, Lafayette LMS 200, sto andando su un forum. Allora, qua dice, per esempio, ti allego, speriamo che ci sia ancora l'allegato, ti allego, sperando di esserti comunque utile, dice, lo schema del tuo Lafayette LMS 200, sto leggendo la chat, il forum, con i riferimenti ai potenziometri da regolare per la lettura dello strumento della potenza in uscita ed in ricezione. Sì, c'è, se l'ha legato c'è ancora, c'è anche la taratura in ricezione, le segnali in arrivo, ecco. Però per vedere l'allegato, vediamo se me lo dà. Allegato, cavolo, forse mi devo registrare, Antonio, devo fare il login, perché sennò non me lo fa scaricare. Se mi dai un attimo di pazienza, è vecchio, è del 2017 questo messaggio, speriamo che non abbiano tolto l'allegato. Vabbè, comunque ricezione è a posto, vabbè, devo sollevare, non è che sia rimorso, ma tanto per dire, ma in trasmissione cazzo è più basso, hai capito? Il discorso è quello lì. Devo pensare almeno al 9, una cosa del genere. È che non mi posso cazzo mettere a controllare tutti i trimmer, no, cazzo già ne ha pochi trimmer questo. Il discorso è quello lì. Mi basta sapere il numero del trimmer, regolare uno e l'altro. E basta. Eia. Allora, vediamo se mi ha fatto accedere, mi sembra di sì. Adesso vediamo se mi dà l'allegato. Oh cavolo, non me lo fa, aspetta che guardo meglio, che non sono pratico. Vabbè, già sono qua, non c'è problema, non è che fuggo, è tranquillo, ci mancherebbe. Tanto è che non me ne ricordo più. Solo prima io mi regolavo, cazzo, dal film perché avevo memoria in testa, cazzo, hai capito? Sono passati da 20 anni. Quindi se no me li facevo cazzo a mano a me. Il discorso è quello. Perché sapevo qual era, regolavo la LC, il trimmer di trasmissione, ricezione, quello che è. Ricordati che c'è sempre la scheda del come si chiama, della portante, eccetera, eccetera, ma comunque sia, cazzo, non me lo ricordo più, guarda, avevo fatto il baracchino di Mario Manzi, avevo fatto, cazzo, quello famoso, quello che c'aveva lui, cazzo. Era una cosa allucinante quell'apparecchio. L'avevo regolato io, ma non mi ricordo più le regolazioni, cazzo. Hanno fatto male a non farmi il filmato. Vabbè, quel periodo lì, mica c'erano i telefoni di cellulare, il discorso è quello lì. Hai capito? Il discorso è quello. Se no l'avrei fatto questo. Ma purtroppo dove mi baso a un certo punto, non mi ricordo più, cazzo, sono passati tanti anni, è impossibile. Sì, allora, no, qua sul messaggio non c'è, adesso vado all'archivio schemi elettrici di quel forum, archivio schemi elettrici, ci dovrebbe essere anche l'LMS 200. Mi facevo una cosa del 2009, del 2006, del 2009, vabbè, non del 2009, a far culo, sto dicendo cazzate adesso, di quelle appare che uscivano prima, cazzo, hai capito? Erano facili da regolare perché non una cazzata, ma adesso non me lo ricordo più, il discorso è quello. C'è l'oscillatore, quello verde, Z168HF, e poi invece nel multimodale 3 cazzo montava l'altro, quello arancione, anzi nel multimodale 2 quello montava con l'arancione, poi nell'altro montava l'altro arancione, addirittura se ti ricordi cazzo, c'aveva anche Mario Manzi, cazzo, quei 200 canali, era uguale identico a questo, non cambiava niente, erano 226 canali, era un casino, era riparato a quello, era veramente un casino, era. Affanculo, cazzo, guarda, la memoria, cazzo, a forza di non farle più, mi hai capito? Sì, già. Allora, io sto cercando sull'archivio, però al momento non lo trovo. Ci sono varie Lafayette, però l'LMS200 ancora non lo trovo, ma speriamo che ci sia, se no lo posso chiedere a qualcuno del forum, se me lo mandano. Strano che non ci sia. Vabbè, dai, prendo un attimo il controllo. Vabbè, già sono qua. Che non voglio toccare, cazzo, un film diverso, la verità. Ancora. C'è solo quei trimmer, è tutto pieno, non c'ho lo schema. E avete avuto lo schema, cazzo, l'avrei fatto, ma andare così, cazzo, alla cieca, cazzo, un casino. Non so manco l'LC, qual è, l'MC. Non me lo ricordo più, non me lo ricordo più, la verità. Vediamo, ho trovato un altro post, vediamo, regolazione Smitter Santiago, di che apparato però, vediamo se lo dice, poi vabbè, se avessi il generatore di segnale basta fare Santiago 9 50 microvolt, però non ce l'abbiamo. Mannaggia, però qua non parlano dell'MS200, parlano di altro. Mannaggia, io continuo a guardare Antonio, appena lo trovo te lo faccio sapere. Nel frattempo sono qua, dai, sto consultando. Ascolta, com'è l'audio adesso? Dimmi un pochettino, aumentato o abbassato? Boh, non saprei, a me sembra come prima, non ci ho badato, la verità. Attenzione però Antonio, non toccare nulla che non sai, già lo buschiamo lo schema in un modo o nell'altro. E sto guardando solamente sotto il trasformatore, guarda un po' da così, che me l'ho segnato, grazie a Dio. Così, vabbè, qualcosa? Mi pare di no. Allora cambiato un cazzo, aspetta. Raffanculo. Ormai già me l'ho segnato, cazzo, dov'era? Aspetta, cerco PDF, cerco la faglietta, l'MS200, formato PDF. E di solito sono gli schemi quelli. E infatti, vabbè, adesso mi falso anche il coso, la verità, perché i picchi ce li ho molto più forti, la verità. La questione è che ho i cavetti fini, sono in attesa, metto i cavetti grossi e vediamo un pochettino cosa cambia. Adesso sto parlando dello split, che lo split funziona, quindi la luce non si abbassa, però c'ho picchi. Ora. Aspetta un attimo. Due secondi, aspetta un secondo. Eccolo qua. Cazzo, la 4-8. Ora, ecco qua. Ora. Da 8 a 4, come no, picchi positivi. Vedi, mi sto regolando, guarda, sul vante, ma adesso. Quindi sono... La 4-8. Ah, l'hai portato 8 watt. La modulazione rimane uguale, non perde. Asco, io la butto così, io provo a chiedere sul forum direttamente. Ricetrasmettitori, vediamo, banda cittadina. Chiedo se qualcuno ce l'ha, da. Sai cos'è il problema, cazzo? Adesso su. Come siamo adesso, cazzo, un casino, cazzo, a fare le prove, capito? Aspetta un secondo, voglio fare una cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po' come sto scendo. Ora. Oh, Antone, sai cos'è? L'udito mio non è buono. Non so se dirti come prima, meno, più, Guarda un po'. Ho attaccato il microfono a pezzicato, come va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così Antonio, un po' più con toni bassi adesso. Con toni bassi? Sì, un po' più bassi i toni. Cioè sono più bassi, capito, rispetto alla mic normale. Aspetta un secondo. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, ora, prova. Sì, adesso è molto pompata, pure troppo però, sei un po'... Ah, ecco, allora questo è l'RC, ci siamo arrivati. Adesso è più poppata la radio, giusto? Sì, potrebbe essere più calma, dai, però va bene. Ok, volevo sapere quella. Ok, allora questo è l'RC, ho capito qual è. Però da lì in poi non mi muovo più. Vabbè, aspetto che cerchi il coso per cattogliere la vuota, così abbia l'apparecchio. La modulazione è comunque amplificata, chiara, com'è? Sì, abbastanza chiara. Abbastanza chiara e migliore come volume, è migliore di quando si è entrato. Ok, dai, allora cercato il trim. Sono stato intuito, la verità, sono stato veramente intuito. Guarda, sono su quest'altro sito, RGPX. Sto cercando dov'è la barra di ricerca, porca miseria. Ma non la trovo. Non la trovo. A cercare dentro il sito, a destra non c'è, a sinistra non c'è. Aspetta un po'. No, questa non è. Ok, allora, adesso sono entrato con il microfono normale, non con quello amplificato, quindi sono con quello originale. Ho capito qual è da regolarmi, vabbè, adesso non mi interessa più che altro. Quello lo regolo in seguito, so qual è, so come regolarlo appena ho il come si chiama. Basta che mi regolo il segnale del come si chiama, di tutto, piano piano. Cazzo, quando c'aveva quelle 240 canali, Mario, cazzo, gli ho fatto la regolazione dell'LC, tutto l'ho fatto. Non me lo ricordo più, sai cosa non me lo ricordo più adesso? Sono passati più di 20 anni. L'ho avuto anch'io con la parecchia addirittura, ma non sono riuscito, guarda, a cavarne i piedi, cazzo. E uguale, identico a questo, come quello che ho di là, 240 canali, satellite base, tale uguale. Oh, porca miseria, c'era un sito che ce l'aveva. La faietta l'ha messa a 200, proprio quello lo schema, l'hanno tolto. È un casino, lo so, è uguale, identico altre tre apparate addirittura, preciso, è preciso identico. Vaffanculo, adesso non mi ricordo come si chiamava quello di Mario Manser. Era un stazione base, era 200 canali, e montava le stesse identiche componenti, ma non mi ricordo quelli che ho fatto la regolazione io per poterlo far uscire, guarda, la verità, amplificato, eccetera eccetera, non mi ricordo per niente. Sono passati più di 20 anni, sono passati. Allora non c'era la fotocamera, eccetera, eccetera, il telefonino cellulare, eccetera, roba così, capito? E avanti, avanti. E beh, pompetta. E beh, giovinotto. Come senti? Bene. Benissimo. Sto usando l'RMS 200. A bombetta, sì. Meglio così, sono contento. Il problema è stato che non riesco a... Cioè, non mi ricordo più come fare le regolazioni, perché ne ho avuto tante di quelli appresi una volta, compreso quelli di Mario Manser, che ha fatto le base. Me l'avevo regalato anche a me, poi l'avevo regalato a lui, e da due non sono riuscito a farne uno, la verità, ma non mi ricordo che marca era, cazzo. Era bello, veramente era bello, stazione base, era uguale, identico a questo qua, preciso, non cambiava niente, gli stessi tutto, l'unica cosa era piazzato in stazione base, c'era solamente l'alimentatore, non c'era altro, ma non mi ricordo, cazzo, che cazzo di marca era. ne ha avuto tanti apparecchi. Allora, quella volta non c'era i telefoni cellulari, tanto potevo memorizzare qual era la MFM, la regolazione delle, di tutto il resto, la verità, per fare le fotografie. Purtroppo, e quindi boh, adesso mi trovo incasinato che io ho un MS 200 e volevo farmi la modifica dell'LC eccetera eccetera, ma comunque se esce bene lasciamo, lo lascio così, cosa vuoi dire? No, esce bene, ho voglia, come non ti ascolto bene, pure non so mai in lontananza, è diverso. Già ti sento bene, a voglia, ci mancherebbe. Tanto questa radio qua, cazzo, in FM mi assorbe. Cazzo, sono da 40 watt in FM questa radio. Beh, perché non lo sapevi, cazzo, che quelle apparecchie sono tutte modificate, insomma. In FM danno più watt che in AM, lo sapevo anch'io quello, l'ho avuto. Forse non mi ero accorto che ha illuminato, cioè praticamente la luce dove c'è scritto AM, FM, illuminato, bellino, eh? C'ha un sacco di funzioni, illuminazione, ecco, di tutto c'ha di più. E secondo quello che scacca ti perdi, cazzo, perché non riesce più a cavare i piedi, capito? Ha avuto problemi, Gio Maria ha avuto problemi, figurati tu, con quegli apparecchi lì, vediamo che ha avuto, non riuscivo a capire i piedi, dice cazzo mi sono incasinato, ha detto, hai capito? E quindi, per cosa te lo sto dicendo? Sono gli ultimi apparecchi che fanno, sono multifunzione, c'hanno un processore, il processore lavora e fa tutto. Piace, cazzo, fa o ti fa MFM o ti fa l'eco normale, ma scesa di radio oppure ma che io un sacco di casini, Tonello, è come gli apparecchi di prima, capito? Tu sei abituato come me, tu immaginati, cazzo, se ti fa ancora un Galaxy Saturn cazzo, tutto multifunzioni, diventi scemo, cazzo, diventi, che va in 28, che va in 30, che va in 40, che va 45 metri, e poi ci sono tutte queste cose strane, cazzo, non ne caveresti i piedi, la verità, costerà un sacco di soldi, ma però io l'ho visto, cazzo, quell'apparecchio di, la verità, che l'ha costruito un ingegnere, l'ha messo su internet, ma è una cosa veramente bella, solo che gestire, cazzo, se non sei ingegnere, oh, lascia perdere, è meglio che tu lasciarlo vedere, perché minimo lavora 1200 euro, a parte 1200 euro, vabbè, diciamo così, se ne vuole anche di più, ma comunque sia, per poterlo usare ci vorrebbe, cazzo, un coso, un manuale di istruzione che non ho idea, del minimo 50-60 pagine, cazzo. Ora un po', adesso c'ho l'eco, si capisce? Sì, adesso c'è l'eco, sì, esatto. Ma si capisce? Ora un po', aspetta. Così al mare, così poco a poco. Adesso vabbè, ma va bene, modello, come ti posso dire, l'eco va bene, come facevo io, una ripetizione, come se fossi in pratica in chiesa, quello lì va bene, è perfetto, perché il 27 abbiamo una maniera di parlare veloce, capito? Quindi non va bene, siamo noi che il difetto è nostro, se non vuole parlare, ciao, come stiamo, hai capito? Capo, c'è anche Marco, avanti Marco. Sì, io, ciao Luca, eravamo qua. Io stavo cercando in rete lo schema elettrico della Fayette, l'MS200, però il sito che te lo dava in PDF non ce l'ha più, l'hanno tolto apposta, cioè chissà quando. La sto chiedendo in un forum. E in foto non c'è, come foto, che sia leggibile, come PDF non c'è, adesso chiedo sul forum. Ah, ok, ok. Tanto, signorino, cerca di farmi dormire, okay, perché mi fa dormire. Okay. Tanto, signorino, cerca di farmi dormire, perché per colpa tua non sto dormendo. Falla dormire, io falla dormire, certo, non mettiti la portante. Ma senti. Comunque c'ha molte funzioni questo apparecchio, molte. Oh, ma lo tocco, aspetta che ne stacco le qua. Adesso è normale. Oh, comunque Marco, in FM ho attivato già, perché mi assorbe un bel po' l'alimentatore, lo sai. Ma quale apparato? Come, scusa? Quale apparato? Il Aniton. Il 5.5, quanti 5 ha? Sì. Sì, praticamente in M sono 12 watt circa. In FM potrebbero essere una quarantina di watt. Beh, infatti, è quello, perché assorbe un sacco. Praticamente adesso mi sta assorbendo, aspetta che ne stacco, spengo l'altro un attimo, aspetta, se mi viene male, poi ragazzi, sarà così, aspetta, questo qua, adesso mi sta assorbendo, se mi viene bene, ce l'ho in basso, allora, vediamo un po', 5 A, però se lo giro sale un bel po', la freccetta dell'amperometro. Eia. Comunque, Luca, di serie potrebbe essere uguale a 35-40 watt, però può darsi pure che sia stato anche aumentato quello, non lo so, magari anche 45-50 watt, chi lo sa. Tirandogli il collo li dà, anche se è meglio non tirargli il collo, dai. Il mio marcato Intech ne dà, sì, massimo 40 in FM, non di più. No, non ti dà nulla. Guarda, c'è coso che... ti ho detto che forse me lo vendo, non meno di 150 euro però, Franco, Binario, ma fammelo sapere se lo vuoi vendere, adesso vediamo, Ecco, Antonio, io ho mandato il messaggio sul forum, se c'è qualche anima pia me lo manderanno, ok. Vabbè, d'accordo, dai, così te lo sistemo e lo metto a posto. Comunque, già va bene, 120 l'ho pagato io, 180 lo stanno vendendo, quello che ho io, quindi figurati, quanto dovresti vendere quello che c'hai tu a un certo punto, 200 euro come minimo, non di più, perché ultima generazione, vabbè. Ma c'è gente che è appassionata magari alla roba vecchia, come è capitato a me a un certo punto. Non lo so. Vedi tu. Eia, ma aspettiamo che rispondano. Potrebbero rispondere anche dopo 24 ore. Comunque io consiglio di non stare a toccare magari roba che non conosci. Io credo che sia Cybernet la scheda, comunque, della Cybernet. Tutti quegli apparati che non sono 3.900 avevano quella scheda lì, o quella marca di scheda, ecco. E vecchia, mi sa, ormai saranno 50 anni quasi. No, non è... è la scheda multimode 2, multimode 3 e Viking, il discorso è quello, hai capito? Il discorso è quello lì, quindi sono schede totalmente diverse da quelle che pensi tu, Marco. Sì, ma Antonè, infatti multimode, tutta quella roba lì usava la scheda Cybernet, il fornitore era quello, il costruttore. Ah beh, quello sì, adesso io la verità io non me lo ricordo più, la verità, prima mi registravo come volevo, il discorso è quello lì, adesso me ne sono completamente dimenticato e quindi a un certo prima li regolavo come volevo io, hai capito? Perché sapevo cosa toccare, adesso non mi fido più. Quello lì. Tutto lì. Non mi fido più. Hai capito? Di scrivere cazzo di buttarmi una parte che cazzo ha già pagato 120 euro, ma ci compri se aveva voto. Oh, no, no. A un certo punto preferisco aspettare, sapere qual è il trimmer, tanto c'è scritto il numero nello stampato, quindi a un certo punto mi posso regolare sul numero stampato, quando trovo, no, quindi a un certo punto va bene. Però il porto che esca bene, questo scendo bene, ho visto, è perfetto. Ho messo lo Smith, è a posto. L'unica cosa è regolarlo, però non lo tocco. Non tocco niente, capito? Ho fatto quella fare là e ci sta giusto lo Smith. Bello illuminato, bianco, e quindi è apposta. Invece prima non funzionava nemmeno. Guarda, sei diminuito di modulazione un pochino, Prima era forte quando è entrato Luca, adesso si è sceso un po' di modulazione. Oppure sei distante dal mic? Distante dal microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova 1, 2, 3. Questo è il mic originale, no? Esatto, quello originale, bravo. I finali sono ghiacciati, non caldi, la verità, quindi sono a posto. Marco, ma questo tipo di radio cos'ha il... come si dice? Vabbè, MSD, così è. Aspetta che spengo il ricevitore, che non capisco la massa, se no. Ecco, dimmi Luca, cosa hai chiesto? Te l'ho detto, questo apparato ha MSD di finale, come cazzo non so com'è, non è come quelli normali. Ah, non l'hai mai visto dentro, è tutto SMD, sembra un cellulare. Ah, ok. E se l'ascolto da qualche parte, mandamela con la frequenza, così l'ascolto pure io. E beh, biondo. Emanuele è entrato, ciao Emanuele. Allora, 433-525, 433-525. E le solite, quella che dovrebbe essere in memoria in quell'affarino che c'hai uguale al mio. Vai, Manuè. Sì, dai, per Luca, Santa Teresa, solo per salutarmi, dai. Ciao, Marcolino, ciao Luca, e ci ascoltiamo. Riprendete pure, dai. Ciao Manuè, Poi Luca, ti devo mandare... No, senta Manuè. Devo mandare... Oh. Dicendo, ho due telefoni. Però uno è da cambiare la batteria. Cioè sta parlando un po' già staccata. E uno è da cambiare il battery davanti con la cover. Che è completo insieme al capo. E me l'hai già detto, fammeli vedere, mandami qualche foto, dai. Il modello così ti dico la spesa, se ne vale la pena, sennò ti dà proprio un cascionetto. Oppure non ti sente, Manuè. Cosa? Dimmi cosa mi ha chiesto. Cosa pompo? Non ho capito. Dimmi cosa ti ha chiesto. Mi ha chiesto, cioè? Dice Antonio, Pompugno non ti sente. Mi ha chiesto qualcosa, non lo so, io... Oh, tu hai detto non lo senti, io ho detto che non lo senti, così hai detto, ma lui ti voleva salutare, capito? Vabbè Manuel, mandami le foto comunque, il modello del coso, dai. Va bene. Marco, adesso c'ho la batteria scarica. Aspetta che provo con l'altro, quello digitale, aspetta. Sì, guarda, quelle sono memorie, frequenze già memorizzate, le avevo memorizzate a chi sei tu. Sono sempre quelle, cioè, alla fine fa estensione lì, quelle private, già le trova lui. Poi da 4:40 a 5:25. No, 4:33 a 5:25. È strano che non senti Emanuele, Antonio, tu sei in alto. Emanuele qua arriva discretamente. Tipo 7, non so, Emanuele parla. non c'è più, forse si è allontanato un attimo. Aspetta, attacco il costo 140 per essere sempre. Ma mi sembra strano. Almeno questo forse il verrebbe lo diminuisce, ma comunque sì. Adesso provo, dai. Boh, ha detto che chiudeva però, era entrato per salutare, basta, boh, vediamo. Il QRM lo ricevi là? Non c'è nessuno, vabbè, sono Gombino. Beh, al momento non stanno parlando. Stavano parlando di, boh, contest, cose, di altre bande, ogni tanto le usano come frequenza di appoggio. Eh sì, confermo che non stanno parlando adesso. Ah, ok, ok. Sta bene, sta bene. Vabbè, l'altra radio è ferma, Marco. No, guarda, oh, non è difficile, no. Posso. È molto difficile da usare, mi so. Siamo te parlando, ho rotto le balle. Ma il ricevitore stai dicendo? Ma io ti ho mandato lo schema, il coso, il manuale in italiano. Tanto guarda, le frequenze sono già memorizzate, nuove da aggiungere, non ce ne sono altre. Ma il discorso è che non ho più pazienza come prima, non credimi, non veramente, guarda, ma adesso è anche facile da usare, ma non ho più pazienza. Lo mando in scansione, boh, sui canali private, quello lì, private e PML al limite se lo vuoi mettere. Quello è spiegato, ecco, sai cosa non c'è in quel manuale? In quel manuale in italiano non c'è come memorizzare i canali. Però siccome sono già tutte memorizzate le frequenze usate dai radioattori maggiormente, V e U, no, non devi fare altro. Vabbè, sì, anch'io comunque mi sono rotto di leggere manuali, coso, non ho più gana, è memoria anche, cioè lo leggo una volta, come queste, come le funzioni di quei baracchinetti digitali, ogni volta te li dimentichi, le leggi sul manuale, e adesso lo so, poi lo lasci un mese fermo, dopo un mese lo riprendi e non ti ricordi nulla. Ecco, avanti. Ciao, saluti amici. Sierra 1, QTH Nuoro, qua in BM, sulla 131. Ho capito, oh, ripeti. R1, operatore Emilio, QTH Nuoro, in BM, in barra mobile, sulla 131. Ah, ok. Salutone, a questa parte Luca, barra fissa, a Sassari. Avanti Marco. Sì, lo copio bene, 9.5 qua, il segnale è buono, la radio pure. Roger, grazie, grazie, comunque, finché vi sento sono in ruota, poi vabbè, vediamo, perché sono in movimento, capito, ma vabbè, poi, non lo so, stavate parlando magari tra di voi, non so se vi ho interrotto, se vi ho disturbato, riprendi Marco. No, ci mancherebbe, stavamo così passando il tempo. Sto aspettando la risposta di uno schema elettrico per Antonello, però Antonio potrebbe volerci un giorno, più di un giorno, se hanno voglia di rispondermi sul forum, perché certe volte non ne hanno gana. Aspetta, capo il tempo, due secondi sta arrivando. Marco, mi copia ancora? Sì, ti copio bene, ma il segnale è stabile, non sembra nemmeno in baramobile, è un 9+5 stabile. No, sono in movimento, ma sto andando piano, capito, sto andando piano. La stazione qual è la tua? Marco, entro col nome di Marco, Condor usavo come nominativo, ma 10 anni fa lo usavo, adesso Marco è buono, tanto credo di essere l'unico anche. A Sassari com'è? Siete pochi, non c'è nessuno, com'è la storia dei CD? Qua siamo un po' messi male, perché i CB più anziani, ma non troppo, non vecchi, anziani purtroppo cadono come mosche, un periodo brutto, Luca può confermare, e gente nuova non entra perché non ha senso nel 2025 mettere antenne, zuffarci col condominio, con i vicini, tarare, non ha senso, con i social e i computer e gli smartphone non ha senso più usare questa banda. Vabbè, sono due cose completamente diverse comunque, nel senso che non si può fare un paragone tra cellulari, smartphone e quant'altro, perché sono due cose completamente diverse. Sì, però alla fine ai giovani non vedo che non frega più niente di di provare a entrare, usare i ricetrasmettitori. Ci sono i social, ti fanno parlare dal polo nord al polo sud, con la pressione di un tasto, di un tasto, fonia, quello che vuoi. Quindi niente, a Sassari niente nuove leve. Anzi, c'era stata una qualche anno fa, c'era una nuova leva e l'hanno fatto fuggire, diciamo, ecco. È sbagliato, quello è sbagliato, eh. Comunque anche noi siamo messi male a Nuoro, forse anche peggio, il discorso qual è? Il discorso è che c'è qualcuno, insomma, che sta cercando di prendere, qualcuno magari vecchio CB che aveva il baracchinetto in cantina, stiamo cercando di fare un gruppetto, però non è semplice, non è per niente semplice. Piano piano vediamo, io sono anche da riamatore, però sono due cose completamente diverse. Il CB, la CB è la CB, io l'utilizzo da quando avevo circa 14-15 anni, quindi almeno una quarantina d'anni quasi, però ripeto, la CB è sempre la CB, c'è poco da fare. Cos'hai in stazione? Che antenna stai utilizzando? Io, vediamo, facciamo girare anche per Luca, sei rientrato, per Antonello, dai, poi ti dirò. Allora, io come baracchino sto usando, sono Cianiton, si pronuncia così, Marco, poi mi correggerai, il 555 Plus, come antenna la Mantova 5. Un'antenna vecchia che un amico me l'ha tutta messa a posto, ecco, perché era tutta marcia. Cavo grosso, quella calza grigia, poi vabbè, c'ho volendo un aiutino, il 747, e come microfono un MB+4 modificato, non so come mi ascolti, riprendi, mi ricordi il tuo nome per favore, il mio è Luca, avanti. Roger Luca, sì, Emilio QTH Nuoro, la stazione Sierra 1, operatore Emilio QTH Nuoro Città. Sì, mi arrivi bene, molto molto bene. Vabbè, la Mantova non c'è da sbagliare, con la Mantova non si sbaglia. Faccio riprendere Antonello, che io però prima mi sa che non ho sentito, non so se mi copia. Riprendi Antonello. Sì, ti ascolto, a voglia, ci mancherebbe. Stazione Alessio, operatore Antonio. Tanto tempo fa parlavo con Nuoro e anche con Certo Sardegna, ma ti parlo di più di 20 anni fa, adesso non più, la verità. Comunque sia, abbiamo impiegato sulla stazione e quindi mi trovo tappato, se non sei stato lui tutti i giorni parlando con voi, perché quando scendeva un amico mio lì in macchina a passo di Correbui, arrivavo 9:30, quindi figurati tu come segnale. E poi Bosa Marina, eccetera eccetera, e lì mi sono divertito dove abitavo una volta. Adesso invece qua sono tappato per la prima volta. L'unica zona che c'ho è la Russia, Polonia, Cecoslovacchia, roba del genere, boh, basta, non c'è nient'altro. Sì, hai perfettamente ragione. Fatto a Marco, riprendi Marco. K, allora, la stazione, un Superstar 3009, Superstar 3009, 40 canali omologato, e antenna 5 ottavi Energy 5 ottavi della Midland, cavo RG213, ma quindi 4 watt, sostanzialmente 4 watt, giusto un microfono amplificato per avere un tantino più di radio, per non avere la modulazione un po' bassa, ecco, e peraltro è messo a metà. Roger, mi arrivi molto bene, cioè mi arrivate bene tutti e tre, Io qua sono all'uscita di Sassari per Cagliari, diciamo, per Nuoro, qua c'è anche un incidente, ma mi arrivi veramente bene, mi arrivate tutti molto bene, oltre il 9, adesso vabbè, piano piano come scendo giù magari il segnale, vediamo un po' che quando ci sentiamo. Riprendi, allora, Antonello, Marco, Luca, mi sembra. Sì, Emilio, anche tu stai arrivando bene, dai, ancora arrivi. Vabbè, forse magari Marco ti accompagnerà più di me, a Pomponi ancora di più, Alessio. Lui ancora di più perché è in zona alta e lui ti accompagnerà per un bel pezzo. Avanti, Pomponi. Poi mi avevo uno sbattero, comunque mi è arrivato il porto, ma mi avevo uno sbattero che un po' da fastidio. Riprendi Antonello? Antonello sta trafficando. Sì, c'è sul canale 11, ci sono gli Stati Uniti che stanno facendo un belame terrificante. E lì sono kilowattari e per quello li sentiamo così forti. Cappa, sì, qua, allora, Sassari, sì, siamo rimasti pochini. C'è la rotta di Alghero che si sta riorganizzando, la rotta di Alghero, e mi pare hanno anche una chat. Però stanno parlando magari su un canale diverso dal 10, cioè non entra, qua non li ho sentiti ancora. E più stanno modulando sulla banda PMR, cioè la banda PMR, poi si usano magari apparecchi amatoriali e antenne esterne, quindi sui 446 MHz. Cioè, tanto molto adesso anche il PMR, sì. PMR 446, esatto, esatto. Sì, riprendi quel che sono distratto perché sono concentrato alla guida perché sono in girato e stavo facendo dei viaggi un attimino. Riprendi Marco, adesso, non so se stavi parlando tu o Luca, adesso, ho perso un pochettino la guida. Riprendi Marco, sta girando comunque, grazie. Qua il segnale sta decrescendo rapidamente, poi unito allo splatter che mi arriva dall'11 un po' caotico. Vediamo se Luca ti copia meglio che più in alto. No, negativo, no, ho splatter dall'11. Secondo te Pomponio lo sentirà bene, perché lui è la zona è buona. Ma vabbè, Antonio, ci sei, ho parlato di sì. Pompetta, ci sei. Pompetta. Sì, sta trafficando, cambiando radio, alla fine l'ha chiamato Simona. E qua purtroppo, Luca, io anch'io non so cosa... C'era 27, hai visto? Stanno sparendo alcuni CB, e gente nuova che entra non ce n'è altra, non gli è fregante a nessuno, dai. Vabbè, un peccato. Sì, c'è la rotta in Alghero, però... Mi pare parlano sul 14 o 28, ma le tanzorello. Però sul 10 francamente non li ho sentiti, nemmeno per fare prove. O almeno io non c'ero comunque. Riprendi lui. Capo, no, se non riesco a tirarlo da Emilio. Forse quanto lui mi sente, ma quando fa le gallerie riusciamo a tirarlo fuori. Elio credo il nominativo, non Emilio, adesso non mi ricordo, va. Io Antonello, cerca di, almeno fai da ponte, sei in alto, Antonello, attenzione Elio, mi copi ancora, qua non arriva più segnale, conta Luca che sono liscio anche, cioè, è poi inutile avere tanto aiutino e lui mi sente e io non sento lui, capito? Lo so Marco, magari c'è un attimino piccolino, capito, magari pochi fa. Comunque c'è una bellissima modulazione quella radio lì. Appena si è entrato questa voce è proprio limpida, nitida, nitida. E l'unica seccatura è che quegli apparati, se c'è una rogna, è chi te le aggiusta. Cioè finché hai la garanzia, o comunque c'è la ditta che li produce, per esempio la Intec ha chiuso vari anni fa, se si guastasse il mio, a chi me lo faccio riparare? A parte che non hanno mai i pezzi, cioè i pezzi di ricambio non ne tengono. E diventa usa e getta il baracchino, capito? E si conferma, è proprio così, è vero. E vabbè, è un casino, Marco, è un casino, altro che... Il baracchino alla fine l'hanno abbandonato un po' tutti per via del telefono, lo smartphone, quello, quell'altro, cioè... Vabbè, io... è sempre qua, Dici, ne ho, qualcosa ce l'ho, quindi avrei più di me sicuramente, però vabbè... Ah, non do nulla, dai, io ero lì per lì, però ho notato, Marco, se io spengo la luce, questo apparecchio anche tutti, non me ne sono mai accorto la verità, perché c'era sempre la luce accesa, tutte le scritte tipo banda, capito, illuminata, bellino. Eia, e di che colore sono da te, quelle scritte delle serigrafie, diciamo? E sul verdolino rimangono, dai, chiaro però. E allora è come il mio, verde acqua. Praticamente hai le cornicette, quelle linee retroilluminate in azzurro, in blu, no? E le scritte sono in verde acqua, un po' come l'hai definito tu, e insomma il display è rosso-arancio più o meno, e i canali, non me lo ricordo, i canali sono verdi da me, quindi canali verdi, display rosso, rosso-arancio, come lo vogliamo chiamare, non è ambra però. Poi scritte verde acqua e righine e mi pare blu. Adesso non ce l'ho sotto mano, però è bello, un bel colpo d'occhio di notte. No, bellino, sì, sì, non ci ho fatto mai caso. Sì, sì, il display arancio. La scritta 10 meter radio, quello lì è sul...